Q10 Natalie. E chi è? Sono io. Ciao Vittu. E beh, come vai? Sì, non tanto bene. E perché? Ti vedo, anzi, pimpanta. Sì, cosa pimpanta? Cosa pimpanta? C'ho problemi. Problemi hai? E perché chi non ha problemi? Provane uno. Io lo so. Problemi di ogni genere. E non ci sta più entrando più nessuno in questo cavolo di frequenza. E l'hanno un po' abbandonato, infatti anche io vedo, non ho molto tempo a disposizione. Oggi è una giornata particolare. Non abbiamo più niente da dire, ci abbiamo detto quasi tutto. Natali, sì, dimmi. Ma quel circolo che c'è in via Sorso, tu ne sai qualcosa? Il circolo che c'è in via Sorso? Questo qui, chi? Quello di Pudiche. Mi sembra lì scendendo sulla vetta, dopo la curva. No, non ne so nulla di circoli, io non ne frequento, quindi... Tieni la calcolatrice. Ho capito, no, volevo sapere avere che cosa era, se era un pub, se era... Perché mi stavo fermando un giorno con un amico e poi ho detto no, una traccia non mi piace. Ma perché? Non lo so, io non ne frequento, quindi non ci so rispondere, Vittu. Io ho capito, ma pensavo, essendo vicino lì, che lo conoscessi. Dopo la curva, quella... ti ricordo dove abitava Adriano? Adriano ancora lì abita. No, Adriano abita qui vicino, a me. Quello prima di casa di Adriano, stai dicendo tu. A lui già lo conosco, era un elettrauto quello. No, allora, appena incominci a entrare, dopo il cavalcavia, dopo la rotatoria, tu stai dicendo quello subito sulla destra, no, ce n'è uno più avanti, dopo Adriano a destra, dopo la curva. No, allora non lo conosco neanche. Ho capito, c'è da molto quello, mi sembra. No, io non lo conosco neanche questo che stai dicendo tu, io conosco quello di Pusti che è blu. E ho capito, lì appena comincia la discesa, subito sulla destra ce n'è uno, è d'accordo. Poi c'era, più avanti abitava Adriano e poi più avanti ancora sulla destra, scendendo una ventina di metri più giù, sulla destra c'è una rientranza. E lei, vabbè, non lo conosce, non fa niente. È una buona curiosità che me la volevo prendere io, il fatto che non ci ho voluto entrare questo amico, vabbè, tutto fa, niente di particolare. E ho capito. Anche Adriano non lo conoscerà quel circolo, perché anche lui conosce a quello di Pudiche. Ho capito. No, ma può darsi che magari da quando è andato via lui, quello lì magari non c'era ancora. Non so quanto tempo ci sarà questo circolo lì, capito? Ma io non ne ho mai sentito parlare che c'è un altro circolo lì. Ce n'era uno in via Palmaera, ce n'era, scendendo per scendere al ponte di Rosello, al coso di Rosello, là, alla fontana. No, quello però è antico, quello era nella quella specie di villa che c'era sotto, la villa vecchia, antica. E vabbè, quella è un'altra cosa però, è giù, devi scendere giù. Sì, lo so. Spero che ci sia un altro circolo vicino ad Adriano, vicino dove abitava Adriano, ce n'è uno solo, poi l'altro che stai dicendo tu non lo so. Sì, ma magari non c'è da molto, ci sarà da poco, però da dove abitava Adriano sono 20 metri più giù a destra scendendo, è quasi nel rettilineo ormai, la curva fatta, scendi e basta, c'è una rientranza, una palazzina nuova. E allora c'è da poco. Sicuramente. Adriano l'hanno sempre dovuto andare perché era in aggiunta quella casa di Adriano, stava scendendo a pizzi tutto, capito? E allora praticamente è venuto a vicino a te, in quella zona. Sì signore. Ma non mi è sembrata molto, diciamo, brutta come casa, adesso ci era entrato un paio di volte. Sì, però i vigili del fuoco li hanno fatti andare via, anche a quel circolo dovevano far andare via, invece è rimasto, non so perché, perché quella casa dove c'è il circolo, lo stesso è pericolante. Già sono case di una certa epoca, però se sono aggiustate hanno la loro funzionalità. Evidentemente i vigili hanno ritenuto di farli evacuare, non lo so. E li hanno fatti evacuare, infatti. Queste sono cose che mi ha detto lui proprio. Ma tu la chitarra non la stai suonando più, l'hai venduta, cosa avevi fatto? Sì, l'ho data e se l'ha tutta aggiustata, quello che l'ha presa l'ha praticamente trasformata. E Gerbito, hai fatto malissimo a darla quella. Come? Hai fatto malissimo a darla. E sì, tanto se non ne stavo suonando, cosa... ma a suonarla meglio però, no? A fare due o tre accordi così, no? E strimpellarla proprio. Ma mi veniva male a fare gli accordi con quella chitarra, non riuscivo a fare il re. Perché la chitarra elettrica per imparare a suonare non va bene, devi prendere una terzina classica e via. Vabbè, io non lo sapevo e purtroppo non riusciva a fare l'accordo come volevo io. Gappas. Poi ho problemi di salute, quindi non ne avevo più intenzione, da. Natale, però ricordati che la chitarra ti aiuta un po' a espellere preoccupazioni, la salute la mette da parte un po', almeno quel tempo che stai suonando non ci pensi a certe cose. Sì, vabbè, io sono vivo per miracolo, non dico altro. Addirittura. E anche in curva. Vabbè, allora è meglio allora che sia così. L'ho data a Bernardinelli quella chitarra. E gli ha cambiato un bel di cosa a lui, se l'ha fatta a modo suo. Ma Bernardinelli chi però? Perché ce ne sono due. Ah, Franco. Il più grande? Franco, quello c'ha il negozio di mobili. Mi sembra che quello lì non lo conosco. Se suona la chitarra lo conoscono tutti a quello. Qui c'ha una Jaguar mi come macchina. Forse che lo conosca magari di vista e adesso mi sta sfuggendo, perché ne conosco altri, Bernardinelli che suona lo stesso, suona anche la tastiera eccetera, però questo non ce l'ho presente, dai. Non lo so allora. Comunque quello che è vicino a me, che c'è il negozio di mobili vicino qua in Corso Trinità. E come l'hai scoperto per dargliela? Perché lo conoscevo. Capito, lo conosceva Franco, gliel'ho detto se la voleva e lui l'ha pigliata e se l'ha messa a posto. E ho capito, ma suonava in qualche gruppo per caso? Lui suona, va nei locali, capito? No, strano, non ce l'ho presente. L'ho visto parecchie volte suonando. Ma locale qui a Sassari? In Uniaru, guarda. Capito. Franco lo conoscono tutti, Franco Bernardinelli. Molta gente lo conosce. Ma che età? È grande, è più grande di me. Avrà la mia età forse. E forse anche più grande di te. Addirittura. Sì, Franco è grande di età. È sempre suonato quello. Vabbè. Poi non avevo nessuno che mi insegnasse, capito, se no magari l'avrei presa più in considerazione la situazione, capito? Natalì, però il problema è che tu per insegnare, per avere un insegnamento, avresti dovuto però avere anche una certa predisposizione, vale a dire che Come fa una segnata che tardi? Devi venire a casa tua, oppure tu devi andare a casa di chi la insegna. Non è una cosa semplice, dai. Ho capito. Ci sono un po' di problemi di spostamento, un po' un gongaio, io ti avrei potuto aiutare tanto, ma le distanze non sono, devi prendere la macchina, io sinceramente un aiuto l'avrei potuto fare da parte mia, ma la distanza non ci permetteva di fare il parcheggio, invece che la posizione geografica non ti consente. Lo so, però mi potevo spostare io la macchina ce l'ho. Sai cos'è? Che io ho detto, il tempo di professore non è che ne avevo tantissimo, è a giorni. Il problema è che per imparare, per insegnare la chitarra a uno che sa suonare, io non dico che sono bravissimo, per carità, la mia è una modestia, per insegnare a suonare devi avere intanto, devi suonare quasi tutti i giorni, perché se non suono tutti i giorni non è che puoi suonare una volta alla settimana o due. Tutti i giorni deve essere fisso lì, facendo sempre quegli esercizi, eccetera, eccetera. Allora così mi pare. Però io a disposizione tutti i giorni non posso esserlo, e quindi ecco perché io non ho potuto farlo a questo punto. No, ma io non sto dicendo a te, anche a un altro, no? Non conoscevo nessuno io che, se no, io non sto dicendo a te, no? Se tu non potevi e basta. No, siccome una volta avevamo provato così, no? Lì a casa tua, però una cosa è provare 5 minuti, l'altro è perché insegnare la chitarra devi avere anche un po' di tempo a disposizione, non è che lo puoi insegnare in 5 minuti, cioè almeno minimo ci vuole un'ora al giorno, minimo un'ora, se poi sono 2 ore è meglio, però 2 ore sono tante, non avrei cavoli di te, un gaggiotto è andato lì. Vabbè, se tu non potevi, ma ho preferito darla, gli ho dato sia l'amplificatore che la chitarra. Ma guarda, hai fatto male a darla, se tu te ne volevi liberare perché tanto non avevi più interesse, io sono d'accordo, però perché darla? Ogni tanto ti facevi una provare, fare, l'hai regalata praticamente a mio parere. Sì, vabbè, per tenerla ferma lì, qua già c'è poco posto, ho dovuto aggiustarla tutta questa casa che era un macello, se me ne parava rumore in alto, figurati, e l'ho dovuta aggiustare. Abbiamo finito di aggiustarla da poco. Ah, quindi hai fatto la ristrutturazione? E allora, ho rifatto il muro. Quello, tutto a nuovo, tutta pitturata, perché non era possibile, ne scendeva tutto il muro, mi capito? Perché erano muri antichi e una prestinata. Purtroppo gli interventi bisogna farli, se no le case ne sono aperte tutte, anche le più nuove. Lo so, è proprio per quello mi sono deciso, mi ha dato una mano Adriano, perché io poco mi posso muovere, che c'ho un'arteria ostruita nella gamba e non posso camminare, capito? Quando la sforzo poco a poco mi viene un dolore allucinante e mi devo ma per forza. Oh mamma mia! Infatti il 19 c'ho un esame per vedere la circolazione del sangue e devono fare un angiofac, mi devono fare. E poi vediamo se riusciamo a farmi operare, c'ho anche un aneurisma grande per vedere se si è fatto più grande oppure è rimasto com'era. Non sono messo bene, no, caro Vittorio, se ti dico che sono messo male. Oh mamma, non lo sapevo quindi a quelli livelli. Oh vabbè, già ce ne abbiamo acciacchi tutti quanti, Non credevo che avessi avuto questo problema qua. Adesso ti sei espresso abbastanza chiaro. Non lo sapevo davvero. Accidenti. E vabbè, è importante sistemare le cose pian pianino. Grazie, oggi la tecnologia già sta andando avanti, all'ospedale già sono all'avanguardia, le cose le conoscono, non è come tantissimi anni fa che per una cazzata te ne andavi, lasciamo perdere. Lo so. Ho avuto due operazioni da poco. Che cos'è? Ho avuto, perché ho avuto una pancreatite che se non sono morto è un miracolo. Poi ho avuto due operazioni in seguito perché mi avevano fatto l'attacco e la risonanza magnetica, da lì si sono accorti, sono diventato diabetico dalla pancreatite, mi facevo quattro insuline al giorno io. Successo. Più stai andando, più mi stai dicendo delle cose allucinanti. Anche la diabete ti ha beccato, per carità. Buonasera. Buonasera, avanti. Buonasera, non so se mi sentite. Se ti ho detto avanti, vuol dire già ti sento. Io sono sardo, non sono sordo, hai capito? Bello bene. Ma cosa vuoi? Ti telefoni stanotte alle 2 e non ti faccio dormire? Beh, se mi dici avanti e indietro non posso tornare, come faccio a tornare indietro? Ma te lo compri, vi tu. Ciao Luca, già me lo devo ricomprare già. Ma è monello però qualche volta. Qui c'è Cuoco, mani mia, Tari. Ciao Vittorio, buonasera. Cuoco male questo Natalino, sempre mi vuole telefonare, infatti lui mi chiama la notte, infatti mi trovo chiamate anonime, sei lui veramente. La notte non ti faccio dormire, ti faccio schiattare, hai capito? Io ti faccio mangiare brrrino di mammo. E beh Vittorio, come va? Mi senti, sì? Forte e chiaro, super. No, la mamma è una bella radio, mi piace proprio quella timbrica lì, proprio quella, la timbrica che piace a me, e anche quella di Natalino è bella chiara, è forte. Questa mi piace, questa radio qua, a me piace la radio telefonica, non vedi amplificate, mamma mia. Ma è già qua, questa qua va bene, 3009, che quello di Natalino purtroppo ha perso la vita. Peccato, raga, nuovo l'apparecchio. Vabbè, speriamo che questo duri. No, questo non lo darei mai. L'ho fatto nuovo perché chi me l'ha venduto me l'ha dei coperchi graffiati, qualche manopola mezzo messa male. Tramite Gianni ne aveva comprato uno, me lo sono messo a posto, la mascherina graffiata. Questo qua è nuovo di pacca. Meglio così, l'importante è questi apparecchi si devono tenere bene, se no è inutile, se li tratti male poi si rovinano e poi ti abbandonano. Sì, ma infatti, è così, quando gli apparecchi li tratti bene, ovviamente devi avere anche l'antenna messa a posto, perché se lo usi ma con l'antenna che c'è a stazionare lo rovini, capito? Kappa. Avanti, Natale. Scusa, stavo parlando con la 50. Concetta, eh? Vado a telefonare a Concetta stanotte, se tu disturbi a me, eh? Sì, telefona. E aspetta, chiamo adesso, quindi tanto non dorme. Attenzione che è armata, mi. Lo senti, qui anche fusilata, chissà, quella è Monella. Armata, no, non la chiamo più. Invece appuntamento alle 6:30, devo sistemare un telefono, cioè devo sbloccarlo. E niente, dai, mi prendete voi, io sono qua comunque, ascolto. Tu. Natalia. No, ho sentito un ronzio, una portante raucidinosa e poi ha mollato. Che vuoi che ti dica? Purtroppo c'è anche questa gente, cosa vuoi fare? Una portante alta era, comunque, non me ne frega niente, siamo su, voi, sono cavoli su. No, perché siamo quattro gatti, Non c'è più nessuno in questo cavolo di frequenza. Adesso che ero riuscito a mettermi l'antenna sul tetto, ero riuscito. E adesso non c'è più gente però. E infatti ho notato un miglioramento netto di segnale, anche perché il segnale è dovuto alla ricezione, vabbè, quello sì, però la radio si comporta anche di conseguenza, se l'antenna non è buona, non è un buon segnale, la radio si è tutta gracchiosa, tutto quella mia, non lo sai, l'antenna è sempre quella, in marcia tutta incollata, con due radiali ci sono solo, e ancora a destra. E finché la barca va lasciala andare, Vittù. Io me l'ho messa nuova e l'ho messa sul tetto, ci ho messo sotto l'antenna della televisione. Che ne aiutano? Ho messo solo quella di questa frequenza, l'antenna, più quella della televisione, blu. Ed è sul tetto proprio adesso. Non è più in facciata. Infatti hai un segnalone bello, chiaro. Anch'io ho l'antenna che la televisione attacca adesso, tutto lì è. C'è la macca 1, vogliamo anche un due radiali. Sembra una spada. Le cornacchie me l'hanno strappata, si sono messe due o tre cornacchie sopra e me l'hanno strappata, già era messa male, poverina. E comunque ancora sta andando, quando non andrà più, piglio tutto e ci butto tutto quanto. E fai bene. Io lo stesso la lascio morire lì. Tanto, per la gente che c'è, aspetta un attimo, Vittù. Fai. Sono andato a dare una mano alla 50, ha capito che sta assentando roba. Io ho capito, ma non c'è problema. Oh signora, qua in questi ultimi 3 anni ne ho passato di tutti i colori. Ti credo, Antonio, con tutti quei problemi che hai avuto, per carità, ma l'importante è che, insomma, qualche cosa si è risolta, ecco, questo è. E adesso c'è un'amica di mia moglie che è chirurga, ero a cena con lei l'altra sera e ne abbiamo parlato, c'ho l'appuntamento che mi ha dato la collega sua per fare questo esame qua, se no me l'avrebbero fatta all'Andrea, di lui a molti. Io sono sempre in queste cose, non sono pessimista, sono sempre ottimista e le cose vanno nel verso che devono andare. E speriamo. A me la collega mi ha spiegato che devono prima farmi l'aneurisma, perché se no ostruiscono dove devono passare e non possono operarmelo se mi fanno prima la gamba, capito? Quindi devi controllare tutto l'insieme com'è. Sì, vabbè, già lo sanno loro dove devono fare, e i pericoli che ci sono per fare quello che non possono fare, lo sanno, perciò interverranno come dovrebbero fare. Se sono persone adulte, magari i giovani non sono tanto iscritti, ma certi medici che hanno una certa età, hanno esperienza, già lavorano come dovrebbero lavorare. E infatti c'erano i miei vicini che erano tutti e due medici, marito e moglie, e sono amici anche di loro, no? Sono tutti medici questi qui, e sono amici di mia moglie. Infatti quella visita che ho fatto me l'ha fatta la collega di questa amica di mia moglie, capito? Bravissima, mi ha fatto burro disegno come era la situazione. E meno male che oggi ci sono le conoscenze, che purtroppo, devo dirti la verità, con rammarico, ma se non conosci qualcuno non riesci a ottenere certe cose, perché funziona così. Oggi all'ospedale dice: guarda, io sono l'amico di, come si chiama, va bene, venga, se non conosci a nessuno ci passi tra 2 mesi. Sì, come mi hanno fatto in questura, mi hanno versato tutto per rinnovarmi il porto d'armi, anche se non stavo andando a tirare, perché adesso le armi non le puoi più tenere se non hai il porto d'arma, le devi lasciare, se no te le sei. Questa, non ho capito, perché ti mandano la lettera, se tu non ti metti in regola te le sequestrano, e hanno cambiato tutto attorno, e praticamente ho versato tutti i documenti e ci devono passare 3 mesi per ritirarlo, secondo il Gabu Daddy. L'altra volta in una settimana me l'hanno dato. Ma aspetta un attimo, Natalia, questa è una novità, che ero digiuno proprio. Ma cioè, com'è questa situazione? Se tu hai un'arma e non è buona arma, te la sequestrano? Sì, sì. ho presenti tutti quelli che ci vogliono per avere il porto d'armi, in questura tutti i certificati medici ci vogliono, altrimenti non le puoi più detenere, la denuncia non basta più. Che strano però, non avevo sentito, ma cioè ti mandano una lettera così? Se se ne accorgono sì, che non hai versato i certificati medici, siccome adesso hanno abbassato anche di un anno.